No, Amnesty non ha mai fatto il tifo per una soluzione oppure per l'altra. Quello che ha chiesto è che nelle valutazioni e nel dialogo tra Unione Europea e Turchia l'argomento dei diritti umani fosse centrale. Ci pare di poter dire che questo lo sia in questa fase, quindi esprimiamo un parere positivo, diciamo, sul procedimento e sul metodo, astenendoci dal merito. È ovvio comunque che è un percorso molto lungo e quindi i diritti umani dovranno rimanere un parametro fondamentale di questa procedura nel corso di tutti gli anni che dovrebbero accompagnare o meno l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Quali sono le questioni più scottanti per quanto riguarda i diritti umani in Turchia? Ma almeno due. La tortura in primo luogo, perché al di là di quanto possa prevedere la legge del paese, la tortura è praticata ancora in forma abbastanza sistematica all'interno delle stazioni di polizia, nei centri di detenzione. Un secondo aspetto preoccupante è quello della violenza contro le donne, non soltanto da parte di pubblici ufficiali, ma in un contesto privato, domestico, ed è un fenomeno così grave che si calcola che quasi sicuramente una donna su due, ma certamente almeno una donna su tre, abbia subito una qualche forma di violenza fisica o psicologica nel corso della propria vita in Turchia. Lo Stato turco ha il dovere di non mostrare indifferenza e di agire, perché anche quando la violenza è commessa in contesti privati rappresenta una violazione dei diritti umani, e al momento lo Stato turco è ancora inadempiente da questo punto di vista. E per quanto riguarda la questione curda? La questione curda è una di quelle che ha fatto registrare dei miglioramenti sul piano del rispetto dei diritti culturali, o dell'inizio del rispetto dei diritti culturali. C'è stato un rilassamento delle leggi che impedivano in buona sostanza l'espressione dell'identità culturale, della lingua, della minoranza curda. Ora è possibile comunicare anche in pubblico, oltre che in privato, nella lingua curda. Vi sono trasmissioni radiotelevisive che hanno iniziato a trasmettere programmi in curdo. E più in generale, ovviamente, il problema dei rapporti tra il governo e questa minoranza devono essere risolti. È un buon passo avanti il fatto che sul piano dei diritti culturali ci siano stati dei progressi. Il 17 dicembre si va al voto, il Consiglio europeo voterà per l'apertura o meno dei negoziati per l'ingresso della Turchia. Secondo lei come si risolverà questa consultazione? Ripeto, noi non facciamo il tifo per una soluzione o per l'altra. Quello che vorremmo è che il voto non venisse inficiato da altre questioni che possono riguardare il piano religioso, il piano culturale, che si parli solo ed esclusivamente di diritti umani, perché sarebbe certamente ingiusto mettere più paletti nei confronti di un paese quando rispetto ad altri si parla esclusivamente di diritti umani. Quindi a noi interessa che qualunque sia il voto, sia un voto basato su un esame indipendente, imparziale e obiettivo della situazione dei diritti umani in quel paese. La Grecia ha cambiato opinione? Non lo sappiamo, questo è un giudizio politico ovviamente. Quando dico che il giudizio dovrebbe essere basato unicamente sulla questione del rispetto, mancato rispetto dei diritti umani, mi riferisco all'atteggiamento di paesi che hanno problemi di natura storica e politica, mi riferisco a opinioni che riguardano ad esempio l'identità religiosa del paese, mi riferisco a temi che riguardano l'immigrazione. Si sente usare a sproposito una terminologia militare come invasione di cittadini turchi, invasione di cittadini musulmani, eccetera, eccetera. Tutto questo dovrebbe rimanere fuori da un giudizio obiettivo sull'ingresso del paese.